a giocare ad esempio in me la casa di Diodati la Frezza, no? Non sono di quelli io. Lo sai che io pochi mabori. Non me ne vengo a casa di radio, già tanti anni fa ne avevo 17 di malattini, tu figurati quando c'avevo l'ambulanza. Uno a uno, a parte tutti quelli che c'avevo in mansarda, che avevo di comica, di centro soffa. Allora uno li ho fatti tutti fuori, che non ce la facevo più, c'era un casino con la mansarda, mi ha detto, bariamo una stanza dove dormiamo, bariamo un casino, Maria. Tutto per i baracchini, di lineari, gli effetti 250, gli effetti 7000, e a bocca di costa. Tre direttive ci avevo, già te lo ricordo, anzi non una direttiva, era normale, una piccola, per la 27, e due, una Firenze 2 ci avevo, installata sopra, una B27L, una multibanda che mi aveva regalato, ma l'avevo volato tutto, la direttiva già te lo ricordi quanto era larga già, 4x4, non lo so io. ringrazio te per me. Esatto, ma no, non le voglio, cioè, ti ringrazio. Non le vedo di casa di Maracchini, no, non saranno. Quindi ti ringrazio, dalle qualcun altro che magari è appassionato, io non mi faccio tutto niente. Cioè, da tutto quel casino che ho, non vedo l'ora, guarda, di sistemarmi la cameretta come si deve, voglio fare una camera per gli ospiti. E quindi gli apparecchi andranno proprio quelli davanti alla porta, dove c'è quello specchio, il piatto lì, gli faccio il foro, faccio entrare il cavetto, gli metto il mobile e lo lascio lì e basta. Questa rimane camera riservata per gli ospiti, più che altro. Thank you. quando vuoi, ci vediamo, basta venire qui a Rosario, sono a casa. Vogliamo santo bene. Ti avevo ricordato di ascolto, lì a parte il modo davanti alla ragazza che parlavo spesso io, a parte Lucia, c'aveva una bella voce, di ritrovare. Ora aspetta la circolazione, non l'ho più sentita. Mi sembra di sì, a parte Lucia c'era anche questa ragazza, ha avuto 17 anni, 18, non mi ricordo adesso. Quindi credo che sono passati un sacco di anni, sono passati. Circolo, c'è di fronte alla farmacia e ci sono delle ragazze brasiliane. capito? La prima vita non la paghi, perché te la evitare spogliate le paghi tu naturalmente. Quelle che ci escono. Comunque, se la vedi, non sarà niente che ci va al giorno, è pieno. Ah, quelle si chiamano scannatrici. Quelle che ti prima te lo offrono lei, poi devi offrire tu sempre. Sono le scannatrici che trovi nei locali un pochino così. Io non vado a buttare soldi in Beozia, poi per, non lasciamo stare, da. Sì, devi chiedere la gente che c'è attaccata al balcone quando entri. Tutti quanti lì attaccati a cercare di andare a farsela. Invece quella più furba degli altri. Che fidanzata col figlio di quello che c'è quel locale, hai capito? Quindi con gli in cascia di nano alla faccia degli avventori, come si chiamano? E come chiamano anche commensali, comunque, ti fa piacere e contenti. Thank you. oscillatore modulato. sai se cosa succede, agli apparecchi su quando sono a lui, non è inutile che ce li hai, che poi ci buttano a onde. Io conosco un amico che ha delle apparecchiature buttate via a Santa Maria, e gli ho sempre detto, venditele tutte, perché qua gli ho detto, quando vuoi accendere qualcuno le funziona, c'è la roba di 15 VHF, cioè, lampadi, più trasmettitori FM, trasmettitori TV e roba del genere. Tutti buttati lì, so, antenne. Quella l'unica cosa che c'ha di buono sono anche le palavacche, le baracchine, ma poi c'ha lì quei box che si piattano per le baracchine con microfonino. Una mi sembra 6 o 7, a parte 5-6 microfoni amplificati. Ma comunque già ne ha, c'ha frequenzimetri, c'è l'attore. Ed è stato, lo lascia lì, ho detto, quella apparecchiatura lì, aveva speso, ho detto, 50 milioni di lire, per dire. Tanto, ho detto, se lo continui a lasciare lì, allumino, sta tranquillo, manco non ne recuperi, ce ne butti tutti. Thank you. che non hanno mai visto mettere antenne, piazzare apparati, e vabbè, e poi dicono che è un mezzo inutile per comunicare, perché ormai c'è Facebook e c'è quella roba lì, ma io non ne sento bisogno di quella roba lì proprio. Se devo chattare c'è la chat IRC, Internet Relay Chat, oppure posta elettronica in caso di messaggi, è tutto lì. mattina c'è stato un ricordo, la macchina del 2009 ce l'ho conservata, quella va, cioè, siccome ce l'ho fatto tornare io uguale, che devo recuperare, che è mio, quindi rimetto la macchina del 2009 ed è perfetto. Oppure un MS 1307. Non si sa, non esiste il schema elettrico, eccetera, e quindi non si sa come rimpiazzarlo. E quelli originali, transistor, sono cancellati, ammesso che fossero originali, cancellati, non si può risalire a cosa erano, quindi sarà una piccola impresa anche capire. Guarda, che a forza di quelli, se tu hai uno di quei lineali dell'Alan, il 477 dei stacchi finali, e poi 1969 ci piazzi quello, il cadente ti dà quasi 40 watt come precedente. Dipende che tipo di transistor è, se è compatibile, tante cose bisogna vedere. Sto dicendo, il 477 lo volta il presidente Jackson, io una volta insieme a Adriano abbiamo messo posto delle, di quello che abbiamo messo 1969, solo che abbiamo dovuto invertire la pedinatura, perché cambia, sembra che il metitore, se non mi ricordo bene. Allora, il 477 ha la base, emettitore e collettore, dunque l'emettitore rimane al centro, e invece dunque la base è uguale, cambia solo l'emettitore rimane in pratica a destra, e al centro, diciamo, 109 c'ha il collettore, quindi bisogna fare in diversione dall'emettitore al collettore, hai capito? E va bene. Forse bisognerà fare qualche ritocchino, cosa si regola, il bias, oppure non c'è bisogno? No, non c'è bisogno, funziona, abbiamo provato, funziona benissimo. Ehi, va bene, ne riparliamo. Prendi Gianni Capri 2. Thank you. fare quante ne vuoi, già non c'è problema, mi ha detto un amico e c'è un cazzo, cioè un magazzino pieno di valvole, cioè, ce ne vuoi, quante ne vuoi e come vuoi, quindi non ti mettere tu dentro quello, le valvole già ci sono, comunque Gianni parlando tu sei come Falcone oggi, sono andato a fare la pipì. Io sono andato vento, mi sono pigliato una lattina di vino, sono andato qui, mi ha dato una cacola ben vento. No, un negativo, mi ha chiamato qua, mamma un attimo. Vabbè sì, comunque Sassari non hanno niente, sono allucinanti. Hanno solo le cose del momento da vendere subito, capito? Non vogliono rimanenze. D'altronde li capisco, figurati. Cosa ti fai? Ti ordini una marea di roba, poi non riesci a venderla nemmeno in 20 anni. Transistor classici ne ho visti allucinanti, paziente non è l'imitazione del 2CC1969, è l'imitazione dell'imitazione. Allucinati sono i cinesi. Diventato giardiniere la cosa, era arrivata da parecchio tempo fa, e lavorava al comune, faceva il giardiniere, poi a Viarocao avevo aperto lì dove c'era la discoteca dietro un impianto serio lì a Ottava, no, Tre Punti mi sembra che era. Poi basta, non lo so, e gli altri che fine hanno fatto non lo so. Mi ricordo che da Marcomicchi avevo visto in vetrina un IC02A, nuovo, usato ma nuovo, l'avevo comprato poche lire. Naturalmente è stato un acquisto inutile, perché trasmettere non potevo ricevere, ma non è che sentissi molta gente all'epoca, c'era Raffaele per dire, no, Lombau, qualcun altro che non ricordo, che forse non c'è neanche più. E aveva cose carine Marcomicchi. Adriano, poi non ne parliamo, io andavo a leccare il vetro della vetrina dove c'erano tutti i baracchini esposti, tra cui anche il Polmar Oregon, che poi era una mezza ciofeca, a quanto ho capito. E il Polmar Oregon già l'ho avuto, anche il Polmar Armata, lo ricordo, c'era i led rossi, grigio con i led rossi, 40 calari. Quello poi era un catarro, io usavo lo spinotto a pressione. E il Pullman Nevada, tu che l'hai avuto, come te lo ricordi? Uno schifo, era vabbè quello che era, ma comunque va bene lo stesso. L'ho avuto anche, come lo chiamava? Mario lo chiamava con nome di pesce, ma proprio sì. Te lo ricordi proprio sì, quello che. Un accento storico. No Antone, tu mi nomi di gente che io non ho mai neanche sentito. Tu conosci Sala 27 dagli inizi fino a oggi, no? Mai sentito, poi sicuramente non arrivava da me. Ma a parte gli splatter, era così malvagio oppure accettabile? No, era accettabile la verità, erano quindi malattie con le reti russi, era bello la verità, solo che si potevano modificare la radice in vate con l'apparecchio, solo l'unica cosa, le radici non avevo mai regolato, perché non ci avevo mai pensato a verità, solo l'unica cosa che toccavo era solamente la taratura del vate, basta. Poi c'erano stati i baracchini bellini che uscivano bene, quelli che vendevamo i chiomi anche, quelli neri, non mi ricordo il nome adesso, uscivano bene lo stesso anche quelli, vediamo dei copi quelli, ma comunque i 50 misure erano perfetti. Adesso rilanciamo Capri 2. Sì, President Jackson, un altro bello, però prezzi folli, io tipo 450.000 lire degli anni 80. Io il multimo dei tre l'ha pagato, l'aveva preso mamma, l'aveva pagato 335.000 lire, era un prezzo normale. Invece tutti gli altri, President Jackson, l'MS200, costavano una follia da noi, quindi a meno che non lo prendessi fuori, però noi non ci fidavamo a comprare roba che non vedevamo al momento, capito? Riprendi Capri 2. Antonetti. gioco, e poi mi sono annoiato e allora ho provato a vedere se la gente, dai. E allora, sempre di vinte ci stiamo parlando. Ah, li ha avuti gli altri, li ha venduti. Thank you. contratto, e state parlando di apparati amatoriali. Chi è entrato? Gianni, Claudio, buonasera a tutti. Ciao Alfa. Ho detto con Claudio ce la va bene, perché sapete lo sa regolare, ma tu lo sregolavi ogni tanto, strappavi il coso, perché gli toccavi sempre la potenza del macchinino. quelli amatoriali. Vabbè, poi se una brava regolare, bene o male lo fa uscire in AM. Quindi quello che è successo dopo io non non lo so. Pertanto non voglio entrare in merito a discorsi che non mi riguardano. Ok, allora il microfono per Marco, se vuole riprendere, altrimenti riprende tu Antonello. Buonasera a tutti. Ciao, Antonio, riprendi tu che sono in cucina. Sì, comunque voi sì, io ti ho sentito, avete asserito così ben bene. Anzi, per dire la verità, perché non sono bugiato, più che altro che si lava Massimiliano Bulldozzo per il Rovesci. Poi non so cosa dirti, io non sapevo che l'avessi passato a lui, quindi la verità. Gianni, per me, il Rovesci io l'ho visto su internet, è veramente bello, sembra... non lo so, la bagna per dito perché c'è un sacco di strumenti, ma almeno sembra lineare, sembra la verità, bello. È bellino, la verità vale almeno intorno a pezzo 3, 4, forse 500 euro, una cosa del genere vale. Era parecchio bello, però nemmeno mi piace la verità, perché è appassionato e c'è una bella valutazione, tutto lì. Peraltro non ti posso dire, Claudio l'ha usato e usciva bene. Veramente bene, perché penso due o tre volte, forse anche di più ho usato in AM, non ho avuto mai problemi. Io non so se qualcuno ci ha messo le mani in mezzo dopo, questo non te lo so dire. Comunque sia, ti confermo io perché io credo che ho sentito con lui si usciva benissimo. C'era Massimiliano che se la sillava per taglio, non addirittura mai dato. Perché poi Massimiliano si aveva procurato, quindi voi sei uguale. Buonasera Claudio, comunque. No, mi ha detto poi Antonello che lui aveva dato lo sotto un po' gay, qualcosa. No, però fa la grande, l'ha controllato il Vittorio, fa la grande Antonello, no, non c'è niente di niente, l'apparecchio funziona perfettamente. Adesso non l'ho più sentito Antonello, però lo usa e va bene, con l'MB più 5. Ok, già riprendi. Ah, con lui se l'ho sudato io, sino all'ultimo minuto sono dovuto usare su internet, sino a mezzanotte, perché Claudio mi ha detto me lo devi prendere, già cerca di fare di tutto, questo e quell'altro, e sono riuscito a prenderlo. Poi da Claudio hanno fatto lo scambio con Marco Scurchio, vero o no Claudio? Secondo che avevo comprato io, il primo è o c'era Marco o c'era Walter, una cosa del genere. No, Marco non ne ha, Marco mi stava dicendo se sapevo chi ce l'aveva perché mi interessava, che mi manca dalla collezione proprio. No, io mi ricordo che ti aveva dato un microfono a te e tu gli avevi dato quello lì, mi aveva dato un microfono, un SM20, qualcosa del genere. Mi ricordo così, poi magari ricordo male. Ma comunque a Marco l'aveva fatto mettere tutto a posto da Massimiliano Archimede, ne aveva fatto fare i fili nuovi, tutto quanto, era perfetto. Stai confondendo con l'altro, io il Ruiz che hai preso tu su internet l'ho dato a Walter, Walter mi ha dato un VHF base, il BGR. Poi Marco ha vinto il BGA base SSB 50 mi pare, non mi ricordo, e mi ha fatto anche quello e si è preso anche quello e quindi ho rimasto senza VHF e senza baracchino base. Allora me ne avevo procurato un altro, ed è quello che poi ho dato a Capri, e Capri ho dato a Antonello Barracuda, capito? La tua del microfono è un'altra ancora, avevo fatto cambio con un non valvolare, sempre della mia serie. Tu che a Marco gli manca, infatti in mezzo, se sai chi lo sta vedendo fammelo sapere che mi interessa. Vabbè, tutto questo, Marco, sì. Ehi, sono qua, sto più tanto ascoltando, dai. Sto mangiucchiando cose così. l'ho messo nell'armadio, il Kenwood, non è che lo stia usando tanto, non, boh, canalizzati lo sai che per me sono più pratici e eccetera eccetera. Quando rimetterò tutto a posto, che ancora c'è l'albero di Natale, forse lo rimetto, ma no, forse lo rimetto. Ma scusa, ma perché le memorie e i canali li hai tolti? No, c'era le memorie, però non puoi mettere lo squelch in AM, io qua ce l'ho, anche quel filo che c'è di fondo me lo elimino, poi col mic da tavolo non mi ci sono mai trovato bene, Claudio. Avevo avuto una BBP5 tanti anni fa, 20 anni fa, però no. Il microfono palmare è sempre quello che preferisco. E io te la appoggio. No, è vero che non io, no, sì, tanto c'è anche lo scocino MFM e tutto. È una macchina un po' diversa. Sembra uguale, ma alla fin fine guardandolo bene all'interno non è. C'è delle funzioni più ragionate. Va bene, avanti caro, ripeti. Ok, no, me l'ha parato, ti aspetta. No, comunque, ma a mio parere lo deve fare funzionare, lo deve fare funzionare. Da che punto? Hai capito, crea problemi poi quando lo accendi. Io ce l'ho fatto dal banco, poi l'ho rimesso e lo stai sentendo, adesso c'è la Claudio Mira, ha messo tutto quanto in assestamento di nuovo, nel senso che più di così non ce n'è. Riprendi, buon pugno. Ascolta, che malacchino c'hai, ma malacchino, che apparecchio c'hai del cametrico che non sia Kenwood, in cambio di una macchina a cucire, così ti pungi le unghie. E niente, perché macchina da cucire non mi interessa, forse. Da più di una, che mi dà la mia suocera, e basta, da. Ok, del cametrico non ne ho più, hai capito, c'è quello che ho comprato ieri, e basta, e questo rimane qui adesso, hai capito, può stare sempre scambiando e facendo, altrove. Hai capito, gli altri che avevo li lasci via, gli altri fuori Nikon te lo prendo, la Sacronde, poi il ricevitore ieri lo fa lui, non è, c'ho questo il muro, non ne ho altro, altrove. No, io voglio un apparecchio serio per quella macchina a cucire che funziona, della Singer. Quindi, tu curati un bel decametrico serio e poi ci mettiamo d'accordo, perché ho controllato su internet la macchina a cucire che vuole, io completa l'immobile, figurati tu, viene 340 euro, la stavo vendendo, quindi figurati tu. Quindi se vuoi la macchina a cucire che è amante tua moglie, io mi faccio spazio vicino al televisore, hai capito? E ci metto quell'apparecchio lì esposto, il decametrico, così lo lascio lì, senza antenna, senza niente, al limite lo uso per cucinare. Ma Singer non ne fa apparati amatoriali? No, la macchina a cucire la Singer, capito? Cioè l'hai vista la macchina a cucire, anzi l'ha vista anche Gianni addirittura, che quando è venuta la moglie, dammi quella, ha detto no, ti do quella che c'è in campagna, ti ho detto. E quindi per quello che gli ho fatto la battuta adesso, se lui la vuole, la macchina lì mi deve dare un apparecchio serio, un decametrico serio, che non sia che lui. Quindi Gianni arrangiati, fai quello che vuoi, perché il pezzo è quello, quella macchina lì, macchina da cucire, completa, tutta in legno e ferro. Questa usare al come che ce l'abbiamo, tra l'altro la mia socia l'ha regalata col mobile, era una Singer, poi c'era quella che va a mamma, quella addirittura ricama fatture degli anni 60, cioè quella, ma a me adesso se la lascio, gli anni una qui al come. No, mi interessava quella tutta in ferro, o hai capito che le, la classica sì, ognuna che le che cornicioni. A me non me ne frega. Hai capito? No, già sono belle come condizione, non per cucire. Li prendi qua. Guarda, signora gli abbiamo regalata tutto il ferro, gli carico di quella nera che l'ha fatta che avere in galaci, figurati, quella valeva un sacco di soldi. E qual è sotto l'esposizione che uno si mette a cucire a come e che non cucisce più nessuno, ma senso già cosa le pesi tu? Io dico solo che ce l'avevo una Singer, quella di mamma. E siccome mia moglie non li usava, ho preso la porta a Portobello, 150 euro l'ho venduta subito. No, io niente, no, quello non si tocca, mia sorella gli ho detto, però insomma, ci avevo lì già me perché lì ha fatto il corso di sarta e fa anche di vestiti, hai capito, subito che, però gli ho detto, quella te la stavo inondando la macchina, perché poi mi chiamo. Non dovrei veramente telefono a casa. Vabbè, ma io, mia suocera me la devo portare su un'altra, c'è il mobile, c'è tutto e niente, assolutamente mi... Muglio, ha capito, ma come era la moglie già, quella di mamma, perché Muglio sta male, l'ho lasciata proprio, che te la prendi, ho detto, ma non lo voglio neanche vedere, hai capito, Marco, riprendi. Faccio il solito lieve innesco, senti, forse il mic è troppo vicino all'apparato o ad altre cose. Sono proprio vicinissimo sono all'apparato, hai capito, così mi allontano, c'è un po' la fila qui scarica, mi ha comprato quelle file, mi ha costato poco al discount, però durano anche poco, hai capito? Che secco è perché lo finale nel più cose. Ok. Marco da Claudio, riprendi. Me lo prego, voi, quindi sta tranquillo. A costo di pagarlo 400 euro, me ne frega nulla, ma a me no, non voglio provarlo, me ne fotte nulla. Qualcuno ci sono che ti vuole mettere 250 euro che ho fatto ieri. Che cazzo, ho messo 250, e quanto vuoi? 250 euro. Spendere 250 euro per gli effetti 250 non fa, secondo me, non lo so, troppo, no, non va bene, quanto penso io, se di meno sì, si può che fare, ma per quello allora aggiungo 100 euro in più, cioè c'è il coso, per dire, un certo quanto sono fatta. Addirittura se posso pigliarmi un coso per 200 euro, anzi neanche 200 euro, 100 euro lo trovo io, non sarà un effetto 250, però dalla che è stato un eco lo posso procurare, per dire. No, purtroppo come prezzo qua, 250 come valutazione è troppo alto. Come stavo togliendo 100 euro, perché ti faccio vedere quanto ho fatto il costo in piedi, 350 euro, forse tu sei tornato con indietro con la lira quando ho comprati l'effetti 250, perché ho conosciuto a casa tua, questo è immacolato, nuovo, l'accettiamo da 200 watt, non è quella da 100, fai attento. Quella con 5 watt e non con quella da 4 watt, quindi a 200 watt picco CNM, FM, banda laterale, CVB o RTTY, perché è completa. Ok, se non volevo togliere 100 euro, adesso non trovo neanche per 200, me la tengo e la metto nella collezione, così impari, visto che io amante dell'FT 250. Guarda, se vuoi la macchina a cucire facciamo scambio, siamo a posto. Senti Teresa, tutto è legno, tutto legno castagno. Aspetta, ma l'FT 250 è SSB CV, non è AM. Questa è la sezione, ti ho detto, completa. AM, SSB, FM, CVW, RTTY. È quella che fa anche i 160 metri, quindi è quella ultima serie, LFT 250D, è l'ultima serie che hanno fatto. Dopo è nato l'altra serie dell'FR 101. La caca con quello scambio. E io Alessio c'era, ma Alessio sì, a Tonello piaceva quello, non so perché, e dice io apparati vecchi non ne voglio più, ma d'altronde l'FT 250 anche se nuovo è sempre di quanto, è 30 anni fa. Sì, esatto, forse adesso lo volete fesserie, mi sembra forse del 90, claro, non sbaglio. Sì, nel 90 è nato promozione, 91-92 ha iniziato il commercio, quindi più o meno siamo lì. Nato, io parlo per mia esperienza vissuta, ok? Io le radio le ho provate tutte, ti posso garantire che non c'è l'allenatore che ha provato le radio, le ho provate io, di tutte le serie, sia valvolari della Kenwood, sia valvolari con stadio finale trasistorizzato e viceversa, della serie Icom, e sia la stessa cosa della serie IES. L'FT 250 a quell'epoca era il top della radio, praticamente di quella serie lì, perché ce n'erano un po' più grosse. Di quella serie lì era il top. Se tu vedi questa radio te ne muori subito. Okay. sotto la scala meccanica. E c'è di tutto di più, di tutto e di più. Addirittura c'è anche il compressore. Quindi di era vecchia, ma molto molto avanzata rispetto alla Terrazzi. Comunque era un'offerta che stavo facendo. La macchina da cucire, se vuoi fare cambio, mi devi dare quella con le ruote. Capito? Perché così mi metto in discesa in via Milano e devo cercare di scavalcare la rotonda che hanno fatto al volo. Se la scavalco con la tua macchina da cucire, allora ti regalo le FT250. Per quelle pesanti non lo so. Poi sicuramente c'è c'è la dogana, non so quanto è, se il 20%, no, l'IVA è salita, quindi anche di più. Ma c'è l'Antone, non è che lo trovi, ammesso che lo trovi a 300 euro, no? Alla fine, aggiungendo, lo paghi un bene. Sì, ma sai cos'è? Mi piace l'apparecchiola, non lo so, mi piace. Tanto me, se vai, non mi piace, vai a cercare cosa voglio, cosa posso fare, non ho un altro 60, no? Perché avevo 70 che avevo un sacco di problemi di, già lo sa Claudio qua, i problemi che avevamo delle vitalici del lene e cose del genere, 70 è impossibile usarlo qua. Dicevo un apparecchio filtrato oppure un FT 101 digital oppure qualche altra cosa, però guarda, io ho usato l'indirizzo perché è vero, l'FT 50 valvole non sentivo neanche a cosa addirittura. A Roberta che modulava a 20 metri da casa mia, più c'era ogni notte, Claudio diceva, se lo ricorda, venivano Gianni, Natalino, parlare con lei, ma io allora non li sentivo per niente, io parlavo tranquillamente in un altro canale, loro parlavano, cioè io parlavo su Pattoni, se loro parlavano in un altro canale. Allora, io parlavo sull'effetto 250, quello a valvole, quello con la manopola, l'unico problema a caso che tirava un certo di quelle scosse che era una cosa allucinante, però ti posso dire che questo fratello ha avuto forse è l'unica persona che ha avuto il verbale dell'esco posto per l'apparato non omologato in concessione con l'omologazione dietro piazzata da me di quegli apparecchi che venivano alla UPIM. Avevo staccato l'omologazione da dietro e ci avevo messo in quell'apparecchio lì. E grazie a Dio non ho mai successo, con tutto quello che avevo di lineare, di V131, ne avevo poca di gravo, l'ultimo dei tre. E la lista mi ha fatto, ce l'ho ancora, me l'ho conservato la lista, ho pagato 80.000 lire. E mi avevo incluso anche quello. Allora era bello, era parecchio, non si muova. Ho lasciato il televisore a fianco all'FT250, tu figurati. La TV c'aveva un pezzettino di cavetta, allora gli dicevo, c'avevo il ripetitore che neanche un chilometro e mezzo in mia l'aria, quello non faceva mai una striscia. Ma al 101 digital lo conosci tu? Io ce l'ho al 101 digital. Dice tu, ti ricordi quando c'aveva Sando Satellite? Non era digital, con il display rosso, te lo ricordi? Che lo usava con il microfono Sadelta, con la rasoio, te lo ricordi di quel periodo che parlava anche Gianni Lune Sole, non so se ti ricordi, c'era lui, l'FT 101 era, con il suo digitale rosso. Sì, sì, come questo, anche questo c'è il frequentimento rosso, grosso, poi tutti i pomigli lo stesso sono, si accendono, si illuminano il rosso, bellissimo ancora l'occhio. Ce l'ho io, 101 digital. Quello piace al signor Capri, vero Peppino, cosa dici? Se ok, a me piace anche l'effetti 250. Tutti mi piacciono qua, tutti i valvolari d'epoca. Ok, ci sono belli, Pirelli, poi bisogna però manutenzionarli, accendere, più fare, papà, che ne abbia uno. Comunque Antonè se lo dà a ratte se lo vuoi. Capito, un po' di razze, è un bel apparecchio comunque. Devo questo uno, Mario, è quello che metto io in internet, ma ci bisogna troppa roba e non facile. Hai capito, ho cambiato microfono, questo è l'MV5, ok, non so se ci sono i mischi, li mettiamo al giallino più uno, avanti di altri. Tutti apparati d'epoca, oggi c'è il revival. Poco fa ho fatto lo stacchetto, ho sentito quello, la casma, compro, vendo, scambio. No, non era così, se tu ti ricordi bene andavi su canale 15, c'era tutto lo shop e ve ne va di tutto. E voi samurai, quante ne vuoi per dire? Uno, dammi 100.000 lire, con quell'altro ne vuoi non so, un diavolo, cioè, con 23 canali e dammi 20-30 da dire. Allora c'era il coso, non c'era il canale per la vendita, c'era sono 15, di tutto si comprava, di tutto i lineari, di tutto era. Guarda, io in quell'epoca l'unico apparato che ho comprato a seconda mano è da Luigi, quello che c'era alla Radio Popolare, ti ricordi? E mo faceva il tecnico. Solo da lui l'ho preso, questo apparato qua. Ed era la quinto e l'unica cosa che aveva era la modifica per togliere e escludere il MIF, perché se no non lo faccio, non c'era il tasto. Lui gli aveva fatto questa modifica per escludere il MIP, perché il MIP era un MIP penetrante, infatti quando entravo Rosalvo mi diceva no, però non stacca questo MIP, che hai un'area di superiorità nei confronti degli altri. Siamo a Luigi Gababbigi, quello che ha detto Luigi. Luigi, sì, quello che trasmetteva radio, Sassari Radio forse, Sassari Radio, è quello andava anche in discoteca, faceva DJ, eccetera, eccetera. E era la Electrolux vicino alla Banca d'Italia. Electrolux lavorava anche un altro che si chiamava Bulldozer, non so se ve lo ricordate, che era alto magrulino. E lì su in Grazia di Urbina era fatta valida Electrolux. No, mi sembra che sia fallito da solo senza che non ci ridina. Mi pare che sia fallendo davvero, anzi no, no, mi sa che abbiano risolto, che abbiano risolto in questi giorni. Io perché sono una succursale provinciale, ci lavorava Luigi e cosa, come si chiama, era ragioniere, faceva la contabilità. Faceva 5x4,20 e porto 1, questo 1 non rientrava mai, faceva sempre 5x4,20. Così, non lo so, comunque Luigi, ci siamo capiti, faceva il tecnico. E fatto sa che lui che mi ha venduto l'unico apparato che ho preso a seconda mano in quel periodo, perché poi prendevo sempre il Woofly, non ne comprava a seconda mano, li prendevo tutti i nuovi già parecchi. Adesso mi chiede, ho comprato qualcuno a seconda mano, perché sennò sempre nuovi. Comunque quelli che ho adesso per prestazione sono nuovi, comprati nuovi da me. Quando volete venire siete invitati. Allora il mio Shark oramai è arrivato anche negli Stati Uniti, quindi mi ha mandato un messaggio uno l'altro giorno. Visto linea di classe già, mi ha detto fammi qualsiasi offerta ma me la devi mandare, e ho detto guarda io ti faccio l'offerta, ho visto la foto di tua sorella, se me la mandi. Mi sembra scalone. Ce lo sai che se vengo io lì a mani vuote non me ne posso andare. La serie D è molto molto bella, almeno se non succede niente, però va bene così. Buonanotte a tutti, ciao Gianni Capridue, Gianni Rubio Room, saluto Giulio che è in ascolto. Buonanotte Giulio, ciao Marco e ciao Antonio Alessio, e chiunque fosse in ascolto. Microfono per te Marco, ascolto finale, poi spengo e vado a nanna. Buonanotte a tutti. Buonanotte Claudio, rilancio per Gianni. Buonanotte, comunque si sente anche il respiro con quel microfono, il tuo respiro si sente. Avanti a chi tocca, Gianni Capri 2. Ciao, buonanotte Claudio, saluti e guerrea, se non ti so per domani, anche io sto spegnendo perché ho visto la sveglia e domani anche per me. Buona presto, ok, rimettiamo il tutto a pompugno e poi anche io chiudo e non fate neanche finalini, riprendi a modulare, riprendi a come? Sì, ok, ciao Claudio. Allora me lo fai vedere con l'apparecchio, non c'è problema. E tenta di essere più tranquillo stanotte, almeno in mattina. L'altro giorno non vediamo quell'apparecchio, mi sei sembrato Gianni, ce lo sai chi, quando faceva a pezzi i CB, che Gianni non è sole. E Gianni Asma, mi è entrato in voce per l'altro giorno. Solo faceva pezzi, poveraccio, a chiunque entrava di quelli che pigliava di miracola, quello stavo dicendo. Comunque cioè, si sentiva che sono con tipo fischio. Mamma, no, non credo più. Forse qualche altro rumore, ma io non ho fischio. E poco facevi così, facevi. Te l'ho detto così. Comunque sia, già lo vediamo. Se va bene cioè, ci mettiamo d'accordo, se no dopo gli avevo fatto cosa, claro, cosa vuoi dire io? Già ne ero fatto, non preoccuparti. Non ho mai avuto problemi noi due, già lo sai, a comprare le cose. Quindi, ma vediamo. Va bene, e forse stavo russando perché mi stavo addormentando nella sedia, stavo parlando e russando. Vi saluto tutti, buonanotte. Per me tu stai facendo altre cose, non lo so, perché io so quando uno ti ispira così, deve essere che sta facendo il maniaco, non è che stai facendo il ciucucciunno. No, veramente mi stavo grattando le balle, forse è quello. Ah, allora, può darsi che ti sei sforzato, la verità. Va bene, dai. Dottor Rum, metti a posto questa ruota incentrata. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao, sì, ciao, buonanotte Claudio, buonanotte a Capri 2. Avanti, Marco. Sì, ciao Capri 2, buonanotte. Domani la sveglia presto, come la mia. Ok. Va bene, adesso chi altri ci è rimasto qua? Sembra vedere se tu Vittorio sbaglio, una battutina. Io stiamo ascoltando. Marco, chi dorme non prende il pesce. Sei sempre lì in agguato, perché tu deve sempre seguire a tutti, ascoltare a tutti. Il 101, l'FR 101 Digital, ok, fa tutto, c'ha anche la 3x9, come il 2250 e c'ho io, ha lo stesso la 3x9, tutta completa, e a salti, però la fa quasi tutta, diciamo, non è che ci siano molti scatti vuoti, dipende da quello che è. E guardi, perché di serie 101 ne hanno fatto 4 serie, di FT250 ne hanno fatto 3 serie, quindi dipende, capito? Questo che c'ho io, c'ho tutto, l'FT250 e l'FR101 digital. Io sono venuto dalle fosse del FQ 50 a Marmola, mi fa poco fa, poi metto, ti sei corretto, allora riverso la cosa, la verità, perché io l'ho usato dentro i conti, con le SME, parlavo dalla Massata, anzi parlavo dall'Appio, da dove c'era l'ascensore, mentre in un box parlavo del giacolante in Massata, in automatico, cioè era molto sensibile, solo il problema che l'aveva nascosta, cazzo, era una cosa allucinante. Pensavo a quel cazzo di valvole, però l'unica cosa, guarda, il bello che mi ha salvato il culo, perché quando ero doppina se non ne poteva la vita, dice non è possibile che tu non disturbi la televisione, tu guardi, qui c'è il televisore, a fianco all'FT250, e te lo vede, dice adesso non metto neanche l'antenna, gli metto un pezzo di filo, gli ho messo un pezzo di filo, non metto neanche la striscia, gli ha fatto primo, secondo, terzo, hai uno, hai cinque, tre, quattro, dire, era neanche nero, ci è rimasto male, ci è rimasto, era bello per quello, poi l'avevo venduto il trucco di Semana Palino, poi l'avevo pigliato un FT7B e dopodiché eccetera eccetera, comunque era un bel apparecchio, l'unica cosa dei vari usciva strano perché non mi dava soddisfazione, uscivo, era meglio diciamo un apparecchio 27, però dicevo trovate li dava proprio bene, e poi a casa e c'avevo una massa a terra e quel apparato lì, quindi scaricava, cazzo mi scosse e pigliavo, allora agganciavo due apparecchi assieme. Guarda, adesso non ne ho voglia, domani lo preparo e te lo faccio sentire, perché c'è l'attacco a 4, quindi posso usare il PAM più 3, posso usare l'MB più 7, posso usare l'M500 da tavolo, posso usare il PAM più 2, posso usare tutti i microfoni che ho a 4, perché a 4. Quello che ho io, ti ho detto, è con lo stadio finale a valvole, con le vittugne Eva 2, questo ne ha 4 perché la versione è da 200 watt, e poi è tutto transistorizzato, come l'FR101, digita la stessa cosa, stadio finale a valvole, transistorizzato, capito? Quindi non c'è bisogno di fare niente. Lo accendi, lo fai scaldare 2 minuti, il tempo di settarsi le valvole e va in trasmissione. Non c'è bisogno di fare preselettore, niente, nulla, da nessuna parte. È come praticamente lo stesso sistema del DAC, uguale, preciso. Domani lo sposto da dov'è e te lo faccio sentire, poi mi darà risposta, te lo faccio sentire con 3 microfoni, con più 2, con più 3 e con la ZG. E poi mi dici qual è il migliore da fare, e mi dirai avrete ragione, è veramente eccezionale, molto molto selettiva come radio, è tecnicamente molto molto bella. Vai a guardare la marca, si chiama FT250B, la serie B. Va bene, buonanotte di nuovo a tutti, ci sentiamo, a te Gianni la microfonia, comunque va bene, sto cercando, va, non ho mai detto niente, va bene. Sì, sì, sì, va bene, quindi spazio ti devi fare per quello nuovo. Vabbè, quello nuovo pesa 52 kg, è praticamente lungo quasi 50 e profondo 40, è alto 16, mi pare 14, adesso non mi ricordo. Ma ci stanno tutte le radio adesso, devi fare fuori qualche radio? No, no, no, ne ho fatto fuori e ho ricomprato. Ho fatto fuori e ne ho ricomprato. Un una proprio ieri, ma l'hanno portata, ma l'ha portata Antonio, e Antonio cosa dici? Poi c'è 80 che ormai sotto è solo serie che imbude, c'è 80, 140, 430, sopra c'è 780, 700, 7004 e poi 757GX2, che puoi girare tutte le linee valvolari, capito? Sopra il DAC ci deve andare la base del DAC sopra, perché all'altezza del ripiano ci deve andare il millone, il cosiddetto FT1000D. Capito? Poi vedete quello, Marco, guarda, quello che sta arrivando adesso. FT1000D, detto il millone, serie 200 watt, lo stesso anche quello, fino alla MOSFET. Un bastione, una grandissima radio, forse la numero uno in assoluto ancora oggi, assieme al Mark 5. Va bene, di nuovo buonanotte a tutti, alle prossime, a te Marco, e spengo e vado a nanna, ciao ciao a tutti, buonanotte, a domani. Buonanotte, allora buona giornata per domani, ci sentiamo. Premi Antone, comunque Antone, ho sbagliato io, quello che piaceva a te era lo Iaesu FT101ZD, eccolo qua, riprendi Antone. Quello dici, sì, esatto, quello lì. Come PCM, l'ha avuto Sandro Sattese, te lo ricordi, cazzo, ci va veramente una bomba, con quel microfono Salerta, che avevo recuperato, che me l'aveva regalato già di me lo ricordo ancora, tu figurati, e sono più di 20 anni, me, e già non sono sapientato, me l'aveva regalato già di una sola, poi l'avevo sistemato, collegato, piazzato, tutto, e gli ho detto cosa sanno, e proprio ho detto se esce, gli ho detto vabbè, ho detto solo ce lo butti, cazzo, quando l'ho sentito ho detto buona, mi sono pentito, l'avevo trovato, sembrava un pingo, sembrava i primi tempi che sono usciti uguale, veramente veramente bella, 100 watt uscita, ma ti ridava solo rapide, cioè te lo dico anche tu Marco, usciva forte, avessi pensato, faceva tante di quelli ex, no, quel periodo insieme a me, a te, cioè a lui, anche a te, e Cos'Angelo Birfino, era veramente allucinante, guarda. Avrei voluto avere un apparecchio del genere, però perlomeno. Ok, vabbè, tanto 15 mesi, in casino a recuperarli, pazienza, ma almeno quello è veramente bello. Se li merita, se lo merita con l'apparecchio, guarda. C'è una bella modulazione, vabbè, assalti, va a far culo. Non li posso dire, però c'è meno c'è il filtro, io. Il 80 qui non è un casino agganciarlo, perché c'ha un sacco di scariche, ma come c'è i filtri, c'è la modulazione pulita. A meno che si gusta qualche altra cosa diversa, non lo so. Adesso vediamo. Ma cos'è sparito? Scrivere o somme capo Iaese FT250 ci sono due modelli, uno con la scala parlante e l'altro dovrebbe, non so se digitale la verità, perché mi hai toccato, dice di digitare, vabbè, il modello. Cosa ho visto, Jason, cosa ho visto? Okay. Allora, USB, Tune, Mode, CV, CV, AM. Ecco, questo FT101 ZDA ha anche la M. Sì, sì, c'è sul video. Benino, è brutto, no? Chiama la 107, lo dico, che usciva benissimo. C'è una bomba con l'apparecchio qua. Usciva bene, usciva molto, veramente molto forte. Poi con il microfono saletta alla soglia, al mare, mi aveva dato Gianni di una storia, me te lo ricordi. Gli ho detto a Gianni, ho detto qua, no, Gianni a Sandro, ho detto qua, ti si sa, Gianni, va a fare Gianni, si sta con quel cazzo di microfono, lo usi, che mi riesce, ma gliel'avessi dato, mi sono pentito, mi sono la verità. E non l'ha prostituito. No, non c'è la verità, siamo troppo barrasone. È nero, è bello, è anche il barrasone. Ma ti piace, 200 watt è proprio riuscita, non è che la per dire, non ti arriva, ti dà proprio reti, niente, il watt. Ci può mettere il microfono a 4 fuori, qualsiasi microfono ci può mettere, il MP5, il Salerno, ci sono di vari impianti. Per caso il 250 è più grande del 101 ZD? È più alto rimane. Poi c'è la cordatura, vabbè, io sto parlando di cosa ha fatto, naturalmente con il modello vecchio, non so se ce l'abbia il modello nuovo, la verità. C'ha una specie di miliamperometro, devi schiacciare il portante, devi accordare le valvole, ti fa un fischio, ti fa capire quella accordatura. Una volta che sei accordato, prendi e torni normale e trasmetti. Però il 250 che avevo io era così, era una classe postale, ma però il 150 di raffa, la valvole naturalmente. Solo il problema è che cazzo ti dava c'è tanta di quella scossa, cazzo. Vedo sui vari video che c'erano infatti molte versioni dell'FT101. Qua vedo c'è 101 ZD, 101 senza ZD, 101 ES, 101 EX. Quali versioni ne hanno fatte? Nero questo, è nero con display rosso, me li ricordo. Vediamo se mi apre il video. Da te è importante che abbia la M per parlare in 27. Senza la M, se no è inutile. Ma è quello che avevi visto tu poi che fine ha fatto? Quello cinese? Hai detto che uno dava, vendeva lo ZD, vabbè, ci è uscito ora. Non so se c'è ancora la verità, io l'ho visto un mesetto fa, intorno ai 300 euro mi sembra lo stava dando, 200-300 euro, non mi ricordo adesso. Basta controllare, non ti costa niente, fai effetti 101, su eBay pure altri posti, i controlli, no? Però io l'ho visto che costava intorno ai 300 euro, una cosa del genere, la verità. Questo è quello con la scala parlante, più semplice, sì, quello con i led rossi, non led, non so cosa siano, è più bello, viene meglio leggere la scala è un casino. Il display rosso ci aveva, noi avevamo una specie di led, diciamo che allora c'erano display rossi, led proprio così non c'erano. Prima ancora dei led cosa c'erano? Le cifre elettroluminescenti, prima ancora c'erano quelle cifre a valvole, era una bolla di vetro, una simil valvole, dentro aveva tutti i filamenti che creavano il numero, allucinante. Esatto, sì. come si chiama, un tet così. Bello, mi sta bello perché tu agganciavi si. Si vedeva questa cosa qua, c'erano delle valvole, c'erano, mi mantenevano rosse in realtà. Super Geopix 3000, aspetta che lo cerco. Purtroppo non non sono più in vendita, a meno che qualche francese non ce l'abbia, so che comprata dalla Francia poi già non hai garanzia, quella è la seccatura. No, ma io, quelli che ho visto su internet avevano qualcosa, uno praticamente era in AM sul canale 20 che se sparava un'altra frequenza di... era sballato di brutto, dai, come frequenza. Allora, credo che sia questo, è dai tempo di caricare. Super Jupix SJ3000B, mi ripari, vediamo se è quello. Ciucciu, poco netto, però io vuoi carico questo cazzo di foto, eccolo qua. È bello, è come il Saturn, è nero, aspetta che ti dico come funziona. Sì, ma secondo me no. No, questo è un sito solo che fa vedere apparati esistiti. Ho idea che non li facciano, non li producano più. Proprio usato. Solo che è troppo piccola la foto già. Aspetta che trovo altra definizione, bello comunque. Due strumenti differenti, numero di canali, frequenzimetro, il frequenzimetro come questo, no? Tipo l'Excalibur Samurai, Pluto, quelli là. Poi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 potenziometri, di cui vabbè alcuni sono selettori, poi quelle classiche leve, quelle leve che si spostano in verticale, no? Più manopola canale, bello comunque. Ma non è vero. Riescono per mostrarlo e basta. A meno che in Francia. Poi dentro hanno la solita scheda e PT3006, quindi facili riparazioni, facile manutenzione. Io sto cercando di inserire Roberta, adesso vediamo se sta buscando da internet. Adesso ripeto. Ehi, ma mi senti? Sì, adesso sì. Aspetta, ti sto cercando l'indirizzo di Roberto su internet, aspetta un secondo. Non mi ha la faccia disponibile adesso. Affanculo. Ma io vi saluto anche tardi, vi auguro buonanotte, rimango un po' in ascolto per i passaggi finali, poi mi chiudo, ciao ciao. Io sai cosa faccio invece bagnatina, però gli accaduti ci vanno in cose in agenzia, così ci parla, se c'è lui ci parla direttamente, poi ti faccio sapere qualcosa, almeno che ti mando qualcosa su Facebook, o se no ti chiamo, non lo so. Mia, sto invento, sto mettendo qua. E non mi carica la pagina e torna indietro. Comunque Gianni si sta chiudendo, ciao, ci sentiamo alle prossime. Ciao, ci sentiamo. Ma che è la cosa, Luffo? Non mi carica la pagina, ma nulla. Io sono però con connessione con la carta SIM, no? 3G, che poi più che 3G mi pari 1G. E vabbè, io se lo seguo i soldi, non mi carica la pagina, ma con me, evidentemente si passa il segnale in basso, non lo so, niente di strano. Ho fatto la quella domanda del coso, Marco, ma comune. L'ho mandata, poi si vedrà. Mica non è come la mica la mandata adesso, no? Il 14 è mandata, poi. Cioè, deve essere anche il 14 la comandata. Come ci buttare il ritorno. Quella per il comune con due posti. Ah, solo due sono, figurati, Sarat Casassari. Passa. carica, sta a curva. Purtroppo ho dimenticato di caricare la batteria al tablet, l'avevo già usato, quindi è durata poco. Vabbè, spegniamo, stanotte si carica. Cosa mi hai chiesto? Se mi hai mandato una domanda, a me sei più tranquillo, come commesso me? Sono due persone che vogliono, di a comune. Ci vuole solo la scuola di Rubi, come ci vuole altro. Lo so Antonio, ma ci sarà tutta Sassa, di certo non prendono me. Cosa te ne frega a te? Anche io lo so che c'è tutta Sassa di ma. Non la trovi mai lavorato in vita tua, quindi foglio ISA devi farti. Ti mandi foglio ISA già a posto, cosa ne la fuori del 2012? Tutto c'è più, sai, mi. Non è che se per i soldi ti entrano. Vediamo un po'. Brava Gava. Non stai bene con me, se poi basta andare da qualcuno che ti dia un calcio in culo, già lo sai. Non ci vuole molto andare a qualcuno, no? Dato che devo dire lezioni, quindi. Io sai che cosa, non ti dai il calcio in culo, se non niente a vuoto, dici. Dici, tra 5 giorni sono risultato io, quindi io ho 5 giorni di tempo. Come ti fa la risposta via email, o se no niente, non la voto. E siamo tranquilli, dici. E siamo perché cosa glielo do il voto io a lei? Lasciali stare i politici, per carità. Ce n'erano due che. Uno era sorso, non facevo nomi, c'era gente che faceva la fila per andare da lui a chiedere lavoro. E ovviamente questo promette per avere le voto, però fa niente. Mi ricordo, nella sala attesa, un po' di gente aspettando per chiedere i turni. Allucinante. O quell'altro, non faccio il nome. Lo stesso facendo finta di fare telefonate, poi ha finito male, è stato anche indagato quest'altro, non ti dico il nome. Sì, vabbè, ma a volte c'è stato lo scoccio, diceva quello, quindi bisogna, vabbè, un aiuto si può avere, si può avere. A un certo punto, vabbè che ci sono dei cari morti a volte, prima sono a parte, poi si mettono, quando una volta che li scaricano si forma un'altra cosa, quindi capito, bisogno dei voti. Qua ci vuole un bel colpo di stato, solo che poi si ci metti, per carità. Ci vuole molto, bisogna fare un po' sul partito, già lo sai. Basta fare l'iscrizione in tribunale, non so, io mi ricordo quanto ci vuole. E facciamo un partito di disoccupati. Andiamo via con il collocamento. Chi vuole partecipare alle elezioni, non sai quanta gente trovi, cazzo. Anche drogati, chi so chi è, cazzo. Come quel Movimento 5 Stelle, visto hai? Cazzo, ma c'è parte tu fate bussi male, so. Anche io non lo so, cazzo. Comunque, poi certi parlamentari che sono pregiudicati, in America li avrebbero mandati via subito. In America è così, quando sei indagato per qualcosa, anche se sei indagato, subito si dimettono e spariscono, per sempre però. Noi abbiamo i soliti che li accompagnano dopo 40 anni, capito, stesse facce, boh. E molti sono pregiudicati, perché quello della Lega mi pare aveva fatto resistenza pubblica ufficiale. Devi pigliare gente seria, non devi prendere questa gente qua, non lo so. Purtroppo non so sono seri come i padri fondatori della Repubblica Italiana, ci vuole gente preparata, no? Non puoi prendere veline e altre porcate del genere, capito? Ci vuole Macicciugna, te lo sto dicendo io, ci vuole Macicciugna, almeno qualcosa ha fatto, ha fatto un bene alla Repubblica, la balcona a tutti. Ti ricordi il partito dell'amore, il partito dei pensionati, il partito dei guasti a una gamba, poi c'era quello dei guasti all'altra gamba, allucinante. Dovrebbe essere una cosa seria la politica, ma no. Qualsiasi cane, io mi ricordo c'era un anno qui a Sassari, e c'erano candidati, c'era candidata gente allucinante, gente ma tipo, vabbè adesso non voglio dire i posti, ma quella marmaglia che gira nei bar di zona, quei nulla facenti che stanno tutto il giorno al bar, no, anche gente brutta, mi veniva, ciao, mi voti, era sì, poi non era gente da portare assolutamente, per carità. Che già lo so, da me. Cane e porci si erano candidati. Loro credono che la politica sia un gioco, capito? Vedrai come finisce questo paese, vedrai. Va bene, Antone, mezzanotte io quasi quasi mi richiudo nel sacello e ti saluto, sentiamo che ti devo far vedere una cosa. Io sono a casa domani, passaggi, non c'è problema, mi già metto di qua. Allora, se posso passo, perché sennò devo stare sempre appresso a qualcuno e cerca di capirmi. E va bene, finiamola qua. Ciao Antonello, buonanotte. Alle prossime e buonanotte anche agli ascoltoni. Buonanotte a tutti. Non sei solo, mi ha pensato a qualcuno. Oggi mi sono vicino a con la di sotto e quindi mi ha sellato. Il fratello si è talmente esaurito, si è aperto le pazienze e si è dormito. Fino a stasera alle 8 e mezzo delle 9, figurati tu. Lei ho tornato a casa qua, io ho mangiato, poi è arrivata Giovanna, gli ha fatto la luce, l'ha fatta, quindi tu figurati, non è che sia bene anch'io, no? Sono trovato un giorno, mi ha preso a loro, insomma, basta. A questo punto non è che sia, che abbia molta libertà, più che altro. Sono chiuso tipo in galera, insomma. Mi figurati, però guarda, se mi chiamano a volare, almeno sono fuori, mi distraggo, quando finisco di lavorare come facciamo una volta, me ne vado al palo, al ciclo, quello che bevo una birra, poi mi ritorno a casa, poi dove dormo e se la biglia in culo. Che sia una birra però, mi non dici. Cazzo dici, avete avuto 10, fatemi se questa non crea patente, fate in tiro la moto. Stai scherzando, non saranno. Cazzo me lo sudato. Bene, bene. Sai che non c'ho stazionaria, quasi. Ma un po' vedere. Adesso sono meno sull'uno che aspetta, non riprendere. 1 e 1. Adesso sono più basse qui e più alte sul 40, sono tipo 1,6, una cosa del genere. Ogni tanto qua varia, capito? Il centrobanda varia in base alla condizione del tempo. Ma questa è la serie. Cosa vuoi dire? Lascia il tempo che tu sia a posto, già lo sai. Adesso devo sistemare quella cosa là. E poi una volta che è pronto, tranquillo che tu non c'è nessun più problema alle antenne. Sei tranquillo, tu sarai anche 20 anni o 40 anni lì, sopra il tetto, e non ho nessun problema. Ma tu quale stai dicendo? La visto te. Allora, quale? Ma è vero che ha lo stile del vetrodesina? Il vetrodesina? E il cazzo quale è questa che è stata? Ascolta, farà cosa? Perché mi scappa la regia, vedi la guardi domani. E tu la tocchi se vetrodesina, come dire cazzo, ma quello c'hai fatto il bisello cazzo lungo 10 centimetri? No, c'è la 50 perché ha fatto la il cosa su Facebook per allungarglielo, cazzo. E alluminio tutto me, lo stiro, è lungo 6,50 m. No, hai ragione, hai ragione. Mi sono sbagliato con quell'altra, come si chiama? La Lafayette. Non me ne ricordo. Dunque la tua è la. Sto cominciando a non connettere. La tua è l'Intec BA27L, l'altra è la Lafayette CBS 18, è allo stile in vetroresina. Quella è una cosa diversa. Una è la NG mezz'onda, l'altra è la NG 5 ottavi, è diversa la cosa. Sì, guarda, la NG 5 ottavi con i soli 3 radiali, leggera, per me è l'ideale, l'ideale proprio. Sarà una seccatura trovare il palo da 4 metri rinforzato, perché ho visto che qua, per esempio, Brickman vende il palo da 4 metri in due pezzi, non telescopico, però è di soli un millimetro, mi pare, un millimetro, sì. Il rinforzato deve essere 1,5-2 di spessore, se è 2 è meglio ancora. Quindi vabbè, c'è qualche idraulico vicino a casa tua, mi sembra, se non mi ricordo male. Quindi prendiamo un tubo da 4 metri e talmente ce lo porti sopra. No, e lo piace, non sa che più. Senza che senza nulla. Ehi, no Antone, niente tubi d'acqua, niente tubi nocenti. Deve essere telescopico perché viene meglio anche fissarla dritta, cioè senza radiali, poi metti i radiali e poi alzi l'elemento del tubo e serri, capito? Non mi piace il coso fisso che non puoi fare niente. È più pratico, dai, c'è poco da fare. Invece anche quello sono voi, telescopico, quel che c'è te, dipende da te. Deve essere da mio o da 1,5 e da 2 di spessore, 2 mm. Io ne ho visto fuori, però ti costano un bel, c'è la spedizione, a me serve da 4 metri di telescopico da 2 mm oppure 1,5. E ho idea che da 2 non si trovino qua comunque. Da chi lo compri? C'è solo cosa, Brico, chi altro li vende? Fusano ne avrà da telescopici da 2, da 4 metri. Ce li ha. Ah beh, se ce li ha è buona la cosa. Perché sta scivolando qua? Come scalda allora? È tra il 4 e il 5 la cifra del frequenzimetro. Sta traballando tra il 4 e il 5, capito? Come scalda l'apparecchio è appena spostato. Questo già non mi fa niente. No, lo so, non mi fa niente. È che per la perfezione mi piace vedere la giusta la cifra. Va bene, dai, buonanotte. E alle prossime, anche domani se riesco. Io sono a casa, se vuoi passare, non c'è problema. Chiamami al telefono, già lo sai, e così ci vediamo qua. E a che ora sei libero tu? Perché avrai un turno da fare lì, no? Il turno, no, c'è nessun turno, non riattiva io. Sono qua a casa, non riattiva, non preoccuparti. Chiamami. E non c'è problema. No, ma tu stai dicendo mattina, io lo sai di mattina alla fine non riesco a passare, se di sera meglio. Si fa di sera, intanto non mi deve passare devo passare in cassare, cioè infatti devo cassare io, la mattina, quindi sono a casa. Cioè, ogni sera, dopo pranzo, va, col butto. Poi andiamo lì qui di fronte, ci beviamo una cosa e non c'è problema. Vediamo se può fa, se può fa. Va bene, buonanotte. Anche a te buonanotte. Alla male Marco, ci sentiamo.